C. Ascolta il testo. Visitare oggi la Valle dei Templi ad Agrigento è un vero e proprio tuffo nel lontano passato greco. Posta sul fianco di una collina che discende dolcemente verso il mare, la valle dove i mandorli fioriscono già nel mese di gennaio è una sintesi straordinaria di storia e natura. Lo scrittore tedesco Goethe, nel suo Viaggio in Italia, 1828, descrive così lo spettacolo offerto dalla Valle dei Templi. «Mai visto in tutta la mia vita uno splendore di primavera come stamattina al levar del sole. Dalla finestra si vede il vasto e dolce pendio dell'antica città, tutto a giardini e vigneti. All'estremità meridionale di questo pendio verdeggiante e fiorito s'alza il Tempio della Concordia, a oriente i pochi resti del Tempio di Giunone».